Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'OMS ha deciso di sospendere la sperimentazione di idrossiclorochina, farmaco utilizzato per la cura dell'artrite reumatoide, che durante l'emergenza Covid è stato impiegato ad uso compassionevole contro il coronavirus. A Obiettivo Salute il commento del professor Stefano Govoni, ordinario di farmacologia all'Università di Pavia. Buongiorno professor Govoni. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Professore, sembra che la decisione sia stata presa in seguito alla pubblicazione di uno studio pubblicato su Lancet che evidenziava effetti collaterali pericolosi per la salute dei pazienti. Quello che è successo è che la clorochina e l'idrossiclorochina avevano sulla carta il potenziale di essere utilizzati nell'infezione da Covid per via delle loro proprietà immunomodulanti e avevano il vantaggio di essere farmaci conosciuti, cioè già utilizzati per altre condizioni. Lo studio che è uscito su Lancet e poi di Mera e collaboratori, poi ripreso nell'editoriale, riguarda l'analisi di migliaia di pazienti trattati con idrossiclorochina e clorochina, i controlli, e non ha trovato benefici, anzi ha trovato degli effetti collaterali previsti con questi farmaci, meno conosciuti in pazienti, virgolette, sconosciuti, come sono quelli con Covid. I dati sono negativi e hanno portato alla soluzione dell'OMS, che condivisibile, altri articoli avevano segnalato la non efficacia. A fronte della non efficacia, la decisione era inevitabile. Professor Govoni, ma l'idrossiclorochina aveva acceso molte speranze. All'inizio dell'epidemia sembrava proprio una soluzione possibile. E ora che cosa succederà? Aveva acceso molte speranze, come ho detto in apertura, certamente. Quello che succederà è che verranno sperimentati altri farmaci, che le sperimentazioni in corso, secondo i protocolli approvati, verranno portate a termine con le dovute cautele, che i pazienti che sospenderanno il trattamento verranno seguiti con le dovute cautele. Secondo me c'è un aspetto positivo in tutto questo, che in poco tempo la scienza, utilizzando protocolli clinici adeguati e approvati, ha potuto dare una risposta negativa, purtroppo, ma per altri farmaci potrebbe non essere così. Il giungere a una risposta, sono in questo periodo stati pubblicati da marzo ad oggi oltre 260 articoli su coronavirus e trattamento con idrossiclorochina e clorochina. È stata una risposta rapida, decisiva. La decisione, ahimè, in questo caso è negativa, ma potrebbe non essere così per altri farmaci. Grazie professor Govoni, per oggi è tutto, vi aspetto sulla pagina Facebook per i nostri incontri. A tu per tu, ospite il professor Iannoccari, neuropsicologo, per un allenamento mentale. Buona giornata.